questa mattina sono stati occupati due appartamenti della TAV in appoggio anche al presidio che si faceva su via di Tor Cervara per bloccare appunto i lavori che proseguivano della TAV. Sono stati occupati contemporaneamente due appartamenti situati qua sempre in settimo municipio a via Mombello numero 7. Nemmeno sono stati occupati questi appartamenti, è intervenuta la forza pubblica con in assetto antisommossa che per entrare a sgomberare ha praticamente picchiato numerose persone che si opponevano a questo sgombero, rompendo nasi a più di una persona, menando molte persone, lasciando una persona a terra con la schiena praticamente rotta perché già aveva dei problemi, gli sono stati dati dei calci sulla schiena, lasciandola a terra e salendoci sopra. La situazione adesso continua così, ci sono ancora persone che cercano di evitare questo sgombero. Al momento attuale le forze dell'ordine, visto che la situazione stava diventando fin troppo dura, gli è stato dato quantomeno un momento di pausa. La situazione adesso è questa, ci saranno una centinaio di persone fuori, una ventina di persone all'interno nel lato di questo palazzo a difesa di questi due appartamenti che sono stati occupati. Al momento il presidio contiene appunto per evitare che venga eseguito questo sgombero che appunto già si preannunciava molto violento. La situazione è questa al momento.